Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il vertice europeo, ma soprattutto le preoccupazioni sulla Spagna. La Spagna infatti, in un vertice in cui si è firmato il patto di bilancio, il fiscal compact cosiddetto, che non ha niente a che fare col fisco, ma ha a che fare con l'obbligo da sancire poi nella Costituzione del rispetto delle regole di bilancio, l'obiettivo di arrivare al 60% del debito sul PIL, il deficit da azzerare, un obiettivo molto molto ambizioso, perché insomma poi ne parleremo, significa per noi portare il debito, che viaggia intorno al 120% del PIL, anche su questo oggi ci sono notizie, a un livello intorno al 60%, ma soprattutto ridurlo in una prima fase di 20 punti percentuali. Un punto percentuale di PIL sono circa 14, quasi 15 miliardi di euro, fate voi il calcolo, insomma non è uno sforzo mastodontico. Chiariremo anche gli effetti, la durata di questa riduzione. Nel giorno in cui il nostro debito ha toccato un livello altissimo, e anche di questo parleremo, perché l'ha commentato in parte anche il Presidente del Consiglio Mario Monti. Il deficit PIL ha fatto 3,9% nel 2011, in diminuzione rispetto al 4,6% del 2010. Anche se il governo prevedeva, questo governo prevedeva un 3,8%, leggermente superiore. Il problema vero è il nostro debito, cioè al 120% del PIL, e questo è il livello più alto dal 1996. E qui iniziano i dolori, perché è chiaro che questa cosa va ridotta, e si può ridurre solo portando entro 3 anni, noi abbiamo promesso, il deficit allo zero. C'è comunque un saldo primario nel 2011, ossia la differenza tra entrate e uscite prima di pagare gli interessi sul debito, che per noi sono tanta roba, è oltre 70 miliardi di euro l'anno. La differenza tra quanto è uscito e quanto è entrato è inattivo. Il saldo primario è tornato, non c'era nel 2010, nel 2009 neanche parlarne, comunque è tornato, pari a 15 miliardi e 650 milioni, un punto percentuale di PIL. Di questo parleremo in apertura, parleremo anche della TAV, perché abbiamo condotto un'inchiesta con la nostra Anna Marino, di alcuni economisti, visto che si cita sempre la TAV, gli economisti che cosa ne pensano. Non voglio entrare nella polemica che riguarda l'ordine pubblico. Abbiamo già detto più volte che la TAV non è solo un problema della Val di Susa, si tratta del corridoio 5 che va da Lisbona fino a Kiev, e quello è il tratto che permette all'Italia di agganciarsi al corridoio 5. Ora, uno può obiettare che il corridoio 5, come altri corridoi europei, non sia importante, e questo è legittimo, ma non può dire che la TAV è un buco in una montagna fatto dall'Italia senza motivo. Il motivo c'è: il corridoio merci che va da Lisbona a Barcellona, passa per Lione, scende a Torino, risbuca fuori a Trieste e va a Kiev. Quello è uno dei 10 fondamentali Trans-European Networks, giusto per chiarire, non riguarda solo la Val di Susa. E poi abbiamo letto che molti dei comuni più contro la TAV sono anche i comuni meno interessati dal punto di vista dell'impatto alla TAV. Comunque, ognuno la pensi come vuole, ma basta dire le cose come stanno. Ancora i mercati positivi, più 0,60% Milano, più 0,20% Parigi, negativa dello 0,16% Francoforte, l'America perde lo 0,10%, Londra meno 0,10%, l'euro è un po' in indebolimento a 1,3201, Azimut più 6%, il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Banco Popolare più 4% come Mediaset, il 3% guadagna Tenaris, il 2,5% Generali e anche A2A. Il 2,20% è rialzo di Fiat, il 2% quello di Lottomatica e di Ferragamo, l'1,80% quello di Mediobanca. Chiudiamo con Fiat Industrial più 1,60%, Enel più 1,30% come Parmalat e Autogrill, Enel Green Power, scusatemi, non Enel normale. Ansaldo STS è meno 2,50%, Di Essori meno 1,60%, Ubibanca meno 1,30%, Stimaco Electronics meno 1,17%. 3:49 238 6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, diamo anche l'oro e il petrolio. Per quello che riguarda l'oro è stabile a $1,719 l'oncia, il petrolio è in leggero calo ma sempre sopra, ben al di sopra dei $100 al barile, $108,48 il petrolio WTI, quello del che si tratta a New York. Ancora, per quello che riguarda il nostro spread, insomma, qui un festeggiamento da fare c'è, perché ricorderete quando partì la corsa dello spread, la cosa che più ci preoccupò fu, e che preoccupò tutti, non fu da un lato il livello, cioè i 700 punti, il 7% di rendimento, scusatemi, 540 punti raggiunti a novembre prima della fine del governo Berlusconi, ma anche il fatto che in maniera inspiegabile la Spagna veniva considerata meno a rischio rispetto all'Italia. Siamo arrivati a un differenziale di oltre 100 punti, cioè alla Spagna indebitarsi costava l'1% in meno come rendimento da offrire rispetto all'Italia. Inspiegabile perché, con tutti i limiti che ha il nostro paese, la Spagna ha un'occupazione doppia, esporta pochissimo, non ha risparmi privati di questo paese, ha avuto una bolla immobiliare molto molto importante, per cui non c'era motivo. Ecco, oggi per la prima volta da allora, dal 5 agosto 2011, l'Italia ha uno spread con il BTP tedesco, quindi un premio sul rischio più basso di quello spagnolo, e questa volta il gallo lo mando. Sì, insomma, 308 punti, ripeto, si arrivò tra novembre e dicembre addirittura a una differenza tra noi e la Spagna di 195 punti. Questo vuol dire due cose: vuol dire che da un lato tutti gli spread rispetto ai titoli tedeschi si sono ridotti, tutte le differenze si sono ridotte, e quindi c'è un complessivamente un miglioramento di quello che è il rischio Europa, rischio euro, grazie anche a Mario Draghi, con buona pace dei tedeschi che dicono che fa politica, se non, anche secondo noi fa politica il Presidente della Banca Centrale Europea, fa politica monetaria, che è quello che una banca dovrebbe fare oltre al resto, e cioè sta finanziando, dando liquidità alle banche, 1.000 miliardi, i rischi ci sono, ma voglio dire, è da lì, è dall'accordo europeo, con molta fatica firmato, e dal fondo salva stati, che si è arrivati a ridurre lo spread. Però all'interno di una riduzione complessiva, lo dico perché abbiamo avuto ospite l'ex ministro Brunetta, che sostiene che insomma tutto il fenomeno sia solo esterno, sia solo internazionale, non c'entra niente l'Italia. No, c'è un miglioramento complessivo di tutti gli spread, ma c'è un miglioramento più forte del nostro rispetto agli altri, tant'è che dai 195 punti di novembre dicembre siamo arrivati a zero come differenza con la Spagna, e adesso siamo anche meno della Spagna. Eccola, e lei vuol far credere che non è di parte. Mi dica l'ascoltatore che cosa ho detto nel citare lo spread che non è di parte. Insomma, sono tutti numeri, andate a confrontarli, andate a vederli. Andiamo avanti. Il governo spagnolo ha fissato al 5,8% il deficit 2012, con un PIL che però è in calo quest'anno dell'1,7%. Invece dalla Grecia arriva un nuovo record sui rendimenti delle obbligazioni greche a 10 anni. Sapete quanto rendono? Sono arrivati fino a un record del 39,23%, poi sono scesi al 37,3%. Chiaramente è un livello di rendimento impossibile da gestire, stiamo parlando di un paese che è parzialmente fallito. L'haircut, cioè la riduzione dei rimborsi, la dice lunga, no? Quando tu riduci o tagli quello che puoi ritornare a chi ti ha prestato i soldi del 45, di metà quasi, 45%, è chiaro che tecnicamente se fossi un privato saresti già fallito, saresti con i libri in tribunale. Però attenzione, il fallimento vero e proprio, cioè la incapacità totale, non come ha fatto adesso la Grecia che ha rinegoziato il suo debito, ma la incapacità totale di rifinanziare il debito costerebbe, secondo l'ILF, circa 1.000 miliardi di dollari e contagerebbe Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Le banche dovrebbero ricapitalizzarsi per 160 miliardi. Però in questo momento i CDS, ossia i premi sulle polizze che si pagano, i premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi sul rischio Grecia, ahimè, segnalano il 99% di possibilità che la Grecia vada in default. Anche qui bisogna intendersi, se assistito è un default, è un fallimento pilotato. Speriamo che resti così. Nel frattempo però le banche europee continuano a preferire depositare i soldi dentro la banca centrale la sera per prenderli la mattina piuttosto che prestarli sul mercato o prestarseli tra di loro. E c'è un nuovo record nei depositi overnight a 776,9 miliardi di euro, 300 miliardi in più rispetto a ieri, vuol dire che ieri notte le banche europee hanno depositato 776 miliardi che questa mattina sono andate a riprendere. Perché? Il rendimento è bassissimo, però meglio, dicono le banche, metterli lì che darli alle imprese, ai cittadini, prestarli a altre banche. Questo è l'unico problema che si può porre sulla misura di Draghi. Cioè, a un certo momento le banche continuano a non girare i soldi che hanno ricevuto sull'economia, ma o a comprare titoli di Stato, o a ripagare le obbligazioni, o a metterle nel tasso overnight voglio dire overnight mare per gli imprenditori più che overnight. E anche la Merkel ha detto bene il prestito di Mario Draghi, ma c'è il rischio di una bolla, la situazione è ancora fragile, non bisogna abbassare la guardia. Andiamoci subito come primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo a raccontare che cosa è stato deciso oggi da Bruxelles. La regola d'oro, quella che si chiama cioè uno dei passaggi principali del cosiddetto fiscal compact, ripeto, non c'entra niente con la parte fiscale, vuol dire l'accordo sulle regole di bilancio. La regola d'oro, quella su cui la Germania più si è spinta, è il fatto che i paesi debbano contenere il deficit di bilancio e che non deve mai superare lo 0,5%. Quest'anno noi abbiamo fatto 3,9, la Spagna, come ricordavamo, ha avuto un deficit pesantissimo nel 2011, stiamo parlando del 5,8%, l'America viaggia con deficit intorno all'8%, la Gran Bretagna ha deficit al 7%, ma non fanno parte dell'euro. Per i paesi dell'euro non si potrà mai superare lo 0,5% del PIL, vuol dire per noi, visto che un punto percentuale vuol dire 15 miliardi, che noi tra entrate e uscite, cioè come deficit, in un anno non possiamo superare i 7 miliardi di euro, mentre quest'anno abbiamo fatto 60 miliardi di euro di deficit, 3,9, un po' di più di 60. E voi capite che portare da 60 miliardi, poniamo il 3% che era la vecchia regola di Maastricht, no? Non, il deficit non poteva superare del 3% il valore del PIL. 3% vuol dire 45 miliardi. Ecco, o essere obbligati ogni anno a risparmiare 40 miliardi, un po' di 38 miliardi, tanta roba, è una manovra finanziaria abbastanza grossa, anzi grossa. E che cosa hanno deciso oggi? Hanno firmato, ratificato i vari paesi, i 25 leader europei e non la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca, hanno ratificato il trattato. Il Presidente dell'Unione Europea, Van Rompuy, si è detto fiducioso che gli Stati lo ratificheranno, avete il compito di convincere i vostri parlamenti. E tra le regole, quella dello 0,5% è sicuramente quella più forte, ma poi ce n'è un'altra che a me personalmente, a noi italiani, dovrebbe preoccupare molto. E riguarda il debito, non il deficit, ma il debito, e cioè l'insieme dei deficit accumulati in questi decenni più gli interessi che paghiamo su questi deficit. Devono portarlo tutti al 60% del PIL, al ritmo di un ventesimo all'anno. Allora, è chiaro che se noi siamo al 120%, dobbiamo ridurlo del 60%, un ventesimo all'anno, vuol dire a casa mia il 3% all'anno, cioè dobbiamo ridurre il debito di 45 miliardi ogni anno, vuol dire fare una manovra da 45 miliardi che al netto delle entrate e delle uscite tagli il debito per 45 miliardi per praticamente per 20 anni. Staremo a vedere. Intanto Mario Monti dice: io non penso che con questi chiari di luna si possa immaginare un'Italia, ma anche una Spagna, che fa manovre da 45 miliardi all'anno per 20 anni. Cioè, vuol dire che insomma, ci risentiamo fra 20 anni in questo programma, quando ormai saremo tutti pronti per la pensione? No, perché probabilmente la pensione sarà a 75, però insomma tutti un po' più stanchi forse. E staremo ancora lì a ridurre il debito. Comunque Monti ha detto è stato molto apprezzato il calo dello spread e le politiche in Italia. L'Italia è soddisfatta per le misure per la crescita emersa dal Consiglio europeo. Ascoltiamo questo passaggio di Monti. È la prima volta, ha detto Monti, che dopo due anni di vertici sulla crisi che si fa un vertice sulla crescita. Fa veramente piacere che per la prima volta da due anni in qua il Consiglio europeo non sia stato dominato da questioni relative a una crisi finanziaria, ma che finalmente sia stato dedicato alla crescita e all'occupazione. Non ci si è limitati a definire una strategia generale, come qualche volta l'Unione europea ha fatto, ma si è dato il via a un'agenda concreta accompagnata da impegni precisi. Siamo d'accordo anzitutto che la strategia responsabile e giusta combina il consolidamento di bilancio con riforme per aumentare il potenziale di crescita e l'occupazione, con un'attenzione speciale a quelle misure che possono avere un effetto più immediato, soprattutto a favore dei giovani e dell'occupazione femminile. E poi le liberalizzazioni italiane. Ieri abbiamo avuto una puntata quasi monografica sull'arrabbiatura delle banche. Ci siamo permessi di dire che le banche hanno... Però attenzione, non si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto. Hanno appena ricevuto le banche italiane 120 miliardi di euro di prestito dalla banca centrale per tre anni a un tasso, al tasso dell'1%. Averne di settori industriali che sono così aiutati, poi scopriamo che di notte li depositano nell'overnightmare. Però vabbè, l'importante è che poi questa misura non ricada su di noi, perché questa misura, cioè elevare la commissione per... quando vengono elargiti i soldi da una banca a un'impresa o a un privato, prima che venga utilizzato questo prestito si paga una commissione. È quello che è nata questa commissione, molti sostengono, devo dire che hanno ragione, per rimpiazzare la commissione sul massimo scoperto che era stata eliminata dal governo precedente. quindi la commissione sugli affidamenti nasce da lì. Comunque, Monti ha detto: sulla liberalizzazione non abbiamo fatto nessun arretramento. Oddio, qualche modifica su alcuni settori, gli ordini professionali, per esempio, secondo me c'è stata, e anche sulle farmacie, poca roba si è vista, e anche sui notai. Sulle banche non siamo stati morbidi. C'è stato tutto un filone di letteratura quotidiana che diceva: siete, il governo è forte con i deboli e deboli con i forti, per esempio le banche. Non entro nel merito, ma non mi sembra che le banche abbiano considerato morbida l'azione del governo, da quello che mi risulta. Quindi sarei molto preoccupato se ci fossero stati arretramenti, credo che non ce ne siano stati. Sempre con questa sottile ironia, molto understated, visto che ieri si è dimesso il presidente dell'ABI e tutto il consiglio, il comitato di presidenza dell'associazione delle banche italiane in protesta per questa norma. Monti dice: mi sembra che le banche non l'abbiano presa bene, alla faccia. E poi sui taxi, ha risposto anche sui taxi, dice: non è vero che abbiamo ceduto ai tassisti, alle pressioni. Non vedo grande differenza tra l'impostazione originaria, cioè l'autorità dei trasporti decide il numero di licenze comune per comune, e quella finale, che mi sembra più operativa. Arretramento grave sarebbe stato se avessimo detto: ok, continuano ad essere i comuni che decidono sulle licenze, punto. No, invece la soluzione è: l'autorità di trasporti emana dei criteri per la concessione delle licenze. I comuni o i presidenti delle regioni, sulla base di quei criteri e sentito obbligatoriamente il parere dell'autorità, prendono le loro delibere. L'autorità può impugnare quelle delibere di fronte al TAR del Lazio. Allora, avete ragione, dicono alcuni ascoltatori, sul patto, sul fiscal compact, l'accordo raggiunto oggi, cioè la ratifica dell'accordo, che poi adesso deve essere in realtà adottato da ogni singolo parlamento nazionale, perché a differenza di Maastricht, la Germania ha voluto, soprattutto la Germania, che diventasse legge nazionale, per cui non è più un accordo europeo tra paesi, ma è una legge dello Stato, per cui avremo nella legge il fatto che il deficit debba stare, sarà una legge, immagino, costituzionale, debba stare per sotto lo 0,5%, e ci impegniamo per legge a portare il nostro debito al 60% in 20 anni. Sulle lobby, un'altra cosa importante di questo accordo è che solo i paesi che l'hanno firmato potranno ricevere gli aiuti del Fondo Salva Stati Europeo, ISM, e quindi non potranno ricevere aiuti la Gran Bretagna, la Repubblica Ceca e l'Irlanda, che dei tre è l'unica che sta dentro l'euro. Dublino deve in realtà sottoporre questo accordo a un referendum vero e proprio. Ma non è ostativo, cioè anche se il referendum non passa in Irlanda, per la ratifica bastano 12 paesi. Sulle lobby, una cosa fatemela dire, però Monti lui difende giustamente, insomma, ha fatto molto, però sugli ordini professionali si sono salvati quasi tutti, cioè, c'è solo l'abrogazione delle tariffe, ma entro 120 giorni però il ministro Severino dovrà emanare un regolamento che fisserà i parametri di riferimento per i compensi. È saltato l'obbligo del preventivo per gli avvocati. I soci esterni non potranno superare il 33% del capitale degli studi, ma insomma, gli ordini professionali hanno avuto poco come tra virgolette danno o riforma delle liberalizzazioni. Sui farmacisti un pareggio, secondo me, perché da 3.000 a 3.300 il quorum per aprire le farmacie, 5.000 esercizi in più, i notai pareggio, hanno aumentato la pianta organica, ma il problema non era aumentare il numero dei notai, era metterli in concorrenza, perché a me interessa poco se ho 4 notai in un paese, tanto di uno ho bisogno. Altra cosa se il notaio va in concorrenza col commercialista o con ragioniere contabile, questo mi interessa. Lo so che i notai si arrabbiano per questo, ma io continuo a non capire il loro ruolo. E anche sulle assicurazioni, sì, parliamo di un pareggio. Il pacchetto di norme antifrode va bene, il non pagamento per infortuni non rilevabili, tipo il colpo di frusta, dentro cui ci sono molti furbetti. E per i clienti è una buona notizia la possibilità di avere agenti plurimandatari. Secondo me sui tassisti invece c'è stata una sconfitta, non che la cosa, l'abbiamo detto molte volte, mi interessasse particolarmente, ma insomma, rispetto all'idea iniziale dell'authority, le corse da una città all'altra, si è fatto retromarcia su tutto. Sull'ENI invece il governo ha mantenuto la posizione iniziale, quindi Snam verrà ceduta e scorporata. E sui trasporti un pareggio, io mi sarei atteso, visto che l'hanno fatto con l'ENI, che anche Trenitalia rinunciasse a livello proprio di separazione vera alla rete, quindi Trenitalia fa concorrenza a NTV, alle prossime Arena Railways, ma i binari sono un'altra cosa, così come i tubi del gas sono un'altra cosa, così come la rete elettrica è un'altra cosa rispetto a chi poi ci manda sopra i contenuti o comunque l'elettricità, il gas o i treni. Noi siamo per la separazione delle reti, anche se questa cosa so che fa arrabbiare Moretti e che poi ci telefona, a me dispiace. Meteo, pubblicità e poi la borsa. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa ha chiuso più 0,43%, ma Milano è la migliore, nel senso che Parigi invariata, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,20, l'America meno 0,13. Bene anche oggi le banche, non così forti come ieri, ma insomma il Banco Popolare più 4,70, risparmio gestito inteso come Azimut più 6%, Generali più 3,20. E ancora citiamo Tenaris più 3,50%. Vorrei la borsa la facciamo dopo, perché adesso invece vorrei aprire un piccolo approfondimento sulla TAV, perché ripeto, della TAV e dei Trans European Networks, ossia dei corridoi infrastrutturali europei, ci siamo occupati moltissime volte in questi anni. In questo momento è un problema di ordine pubblico e tale viene da me derubricato. Detto ciò, siccome praticamente da più parti si sente dire l'appello dei professori, degli economisti, che le ritengono un'opera inutile, avranno sicuramente i loro motivi, ci mancherebbe. Abbiamo avuto ospiti anche alcuni di loro, penso al professor Ponti, però la nostra Anna Marino ha chiesto a due diversi economisti e chiaramente un ministro, che è il ministro dell'ambiente, un giudizio su questa TAV, con una piccola precisazione prima di far partire l'intervista. Molti hanno scritto anche adesso, ma quali merci passeranno mai da Lisbona per Barcellona per andare in Russia? A parte il fatto che io tutte le vostre certezze non le ho, magari ne passassero, ma allora decidiamo non che il problema è la Val di Susa, ma decidiamo che non bisogna fare il corridoio 5, il Lisbona, Barcellona, Lione, Trieste, Kiev. Questo è il punto, cioè, allora uno dice, secondo me non servono questi corridoi infrastrutturali europei per far portare merci da ovest a est, perché tutto il resto è secondario. Siccome questo corridoio deve collegarsi all'Italia e lo fa scendendo dalla Francia, quindi Modane, e poi entra sulla direttrice Torino-Trieste, lì si pone il problema della Val di Susa. Ora, c'è già un'alternativa pronta, perché siccome i francesi e i tedeschi non avrebbero voluto farlo passare lì, volevano farlo passare dall'altra parte delle Alpi, cioè in territorio franco-tedesco. Se no non lo facciamo, va dall'altra parte. Poi qualcuno mi deve spiegare perché i montanari francesi, gli abitanti delle valli francesi, non si lamentano e sono avanti con i lavori, però questi sono i misteri. Ultimo aspetto, la tratta comune è al 63% a carico dell'Italia, 4 miliardi di euro. La cifra è salita complessivamente, doveva costare 6 miliardi e 7, la tratta italo-francese è già salita a 9 miliardi. Il nostro paese ha chiesto un ribilanciamento, cioè pagare la metà. Però non dite che costa 22 miliardi. 22 miliardi costa l'intero tratto del corridoio 5, cioè da quando entra in Italia in Val di Susa fino a quando esce a Trieste, se no si danno informazioni sbagliate, eh? Il ministro Clini, a proposito della TAV. La TAV dal punto di vista ambientale è stata ampiamente esaminata e mi pare che i problemi siano altri. Io credo che i valsusini abbiano partecipato in tutti questi anni a molte fasi di discussione, ripeto, la commissione Virano ha avuto un ruolo importante in questo. A un certo punto però bisogna prendere una decisione e la posizione del governo è stata già espressa in maniera molto semplice e molto chiara. Rigoroso rispetto delle normative nazionali ed europee in materia ambientale. Però le infrastrutture servono al nostro paese. E allora adesso invece due economisti che la pensano in maniera diversa sulla TAV, così ognuno si può fare un'idea. Il primo è il professore che è a capo dell'osservatorio sulla nuova linea Torino-Lione del Politecnico di Torino, Carlo Alberto Barbieri, lo ha intervistato la nostra Anna Marino sulle opportunità da vedere in prospettiva di sviluppo. Questo è il ragionamento che fa Barbieri. L'opera era è e sarà strategica perché si tratta di stare dentro la rete fondamentale della connessione europea. È uno degli obiettivi ineludibili dell'Unione Europea se vuole essere un'unione non solo monetaria e se vuole praticare una grande strategia dell'Unione Europea che si chiama coesione territoriale. Siamo dentro questo grande progetto, la Torino-Lione è stata confermata recentemente nel bel mezzo della crisi dall'Unione Europea che ha selezionato i 10 progetti prioritari. Si tratta di un'opera problematica e difficile, non è fare un parcheggio e quindi ha bisogno di tempo e quindi va progettata, vanno avviati i lavori durano 10 anni, l'esercizio è previsto nel 2023, 2024, 2025, si proietta su una prospettiva che non è quella dei conti delle merci che sono passate negli ultimi 6 mesi, ma si proietta all'Europa di fra 30 anni. Torino deve decidere sostanzialmente se il suo futuro essere la fine della pianura padana oppure se è invece una cerniera fondamentale del nord-ovest italiano e del sistema est-ovest europeo. Chiamarsi fuori in questo momento sarebbe inopportuno? Per me è quasi impossibile, inopportuno sicuramente, lo considero un errore che pagheremo carissimo perché ci saranno delle penali gigantesche da pagare, lo pagheremo moltissimo in termini di non credibilità del nostro paese. Potrebbe essere migliorato comunque il traffico nella zona? Non solo migliorato, è proprio una riforma radicale, positiva del territorio. C'è poi chi scrive, i francesi non hanno protestato perché le compensazioni per gli espropri sono molto più alte che da noi. Perfetto, quello è un punto. Allora, a parte il fatto che leggere che i comuni che più protestano sono quelli meno interessati al passaggio della TAV, cioè gli passa 50 metri sottoterra, vabbè. Ma che lavorassero su quello, lavorassero su compensazioni più alte e i costi lievitano anche per le compensazioni. Ne sa qualcosa l'alta velocità sulla Milano-Torino, in cui ogni comune ha chiesto svincoli faraonici che manco a Los Angeles l'avete mai fatta quella autostrada. Guardate gli svincoli che ci sono per paesi da migliaia di abitanti. Ecco, però, e Moretti, così adesso lo difendo, ha ragione nel dire che i costi sono lievitati nell'alta velocità Torino-Milano per tutti gli oneri di compensazione che le ferrovie hanno dovuto pagare ai comuni. Ma facessero così anche in Val di Susa, chiedessero asili, piscine, parchi, quello che vogliono. Va bene, quella è una trattativa, ma no bloccare tutto immaginando che siccome non deve passare in Val di Susa, l'Italia rinuncia al corridoio 5. Chi ha qualche riserva comunque sull'opera è il professor Boitani, che però riconosce, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano, che però riconosce che i costi si sono un po' ridotti rispetto al progetto iniziale. Lo ha sentito sempre la nostra Anna Marino. Il progetto che è stato recentemente rivisto è un progetto molto meno costoso di quello iniziale e da questo punto di vista certamente più rassicurante. A mio parere vi sono altre opere che probabilmente rivestono un grado di priorità maggiore di quanto non rivesta la linea Torino-Lione ferroviaria, e quest'opera si farà. Sotto questo profilo credo che la posizione e le azioni soprattutto che sono state recentemente prese dai movimenti notati siano assolutamente inaccettabili. Ecco, però chiamarsi fuori in questo momento non è possibile, secondo lei? Ma io credo che sia effettivamente molto difficile, le cose sono andate ormai troppo avanti perché si possa tornare indietro su quel progetto. È qualcosa che mi sono permesso sommessamente di osservare per molto tempo ed è sempre auspicabile in generale nei confronti di tutte le opere infrastrutturali che si devono realizzare, quella di fare delle analisi accurate dei costi e dei benefici e soprattutto analisi comparate. Se questa opera fosse stata analizzata nel giusto modo, magari avrebbe avuto qualche possibilità in meno di essere realizzata? Probabilmente sì. Cos'è che mancava, diciamo, e che può mancare? Ma è mancata una adeguata, diciamo così, e attenta stima della domanda di traffico su quella tratta, alla luce anche degli andamenti del traffico che negli ultimi anni sono stati in declino. Vabbè, poi gli insulti a parte, tanto io. Darmi del testicolo, diciamo, non è che risolva il problema della TAV, potete scriverlo anche 28 volte, a me non cambia niente, ma insomma ragioniamo per favore sui fatti. Dopodiché tutte queste previsioni, l'opera sarà fra 20 anni minimo, avete sentito? Siamo sicuri che fra 20 anni il traffico merci non debba viaggiare su rotaia? E poi sono d'accordo con chi scrive, allora su gomma non lo facciamo viaggiare, su rotaia no, che facciamo? Lo paracadutiamo? Sul mulo? Traffico. Allora, alcuni contestano l'utilizzo che appunto con l'occhiale li facessero invece di facciano, va bene, va bene. Parliamo invece dello spread, che è l'altra buona notizia di oggi. Poi vi annuncio che alle 18.10 parleremo di economia, del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, con un autore che sta particolarmente a cuore a questo programma. Si chiama Edoardo Nesi, ha vinto il premio Strega l'anno scorso, lo ospitammo in tempi non sospetti col suo primo libro L'età dell'oro e ha scritto un nuovo libro che chiude la trilogia sul, diciamo, declino industriale di Prato come declino industriale di una nazione, ma soprattutto un libro pieno di angosce, dubbi e anche autocritica per quello che lascerà la sua generazione ai suoi figli. Prima di tutto però lo spread che torna per la prima volta da agosto sotto il livello spagnolo, ossia la Spagna è percepita oggi più a rischio come prezzo che deve pagare sulle sue obbligazioni rispetto all'Italia. Eh sì, perché per carità la strada è ancora lunga, lo hanno detto come ricordavamo i vari leader europei dopo il vertice a Bruxelles, però insomma 304 punti e soprattutto l'annullarsi della differenza tra noi e la Spagna, a segnalare che c'è stato un recupero più forte dell'Italia rispetto alla Spagna, non è solo un problema di tutti gli spread che stanno calando, con buona pace del ministro Brunetta, nostro ospite, è vero che tutti gli spread si stanno riducendo, ma è vero che quello italiano si è ridotto di più rispetto ad altri. E ne vorrei parlare con il direttore del Sole 24 Ore, che ha dedicato intere, il Sole 24 Ore chiaramente, intere aperture, ricorderete il famoso titolo Fate Presto, Roberto Napoletano, ciao direttore. Sono contento che hai fatto riferimento al titolo Fate Presto, io solo come dal punto di vista cronistico vorrei ricordare che quel giorno lo spread aveva toccato dei punti massimi, 575 punti. La cosa che tutti dicono e che noi stessi abbiamo scritto, che i rendimenti sui buoni del tesoro a 10 anni erano superiori al 7%, quello che spesso si dimentica è che i rendimenti a brevissimo termine erano al di sopra di quelli a lungo termine, ed il fatto che sui rendimenti a breve ci fosse un andamento così anomalo indicavano l'anomalia della situazione italiana. Io perciò ho sempre rivendicato in quel titolo, in quei caratteri, in quella dimensione, il rigore del Sole 24 Ore, perché in quel momento era obbligatorio per noi fare la necessaria operazione di verità e dire cioè come stavano le cose. E quindi in questo senso è effettivamente una soddisfazione vedere che in un periodo relativamente ristretto la credibilità del titolo Italia è ritornata. Questo non significa affatto che siamo fuori dalla crisi, non significa affatto rilassarsi, però il dato a cui facevate riferimento, facevi riferimento tu prima, non solo il differenziale rispetto al Bund tedesco, ma anche rispetto ai bonus spagnoli è molto importante, perché veramente nessun fondamentale giustificava questa anomalia, e quindi vuol dire che c'è un recupero di fiducia e di credibilità che riguarda sia pure tortuosamente l'Europa nel suo complesso, ma all'interno di questo recupero di fiducia e di credibilità ce n'è anche uno che riguarda più specificamente il nostro paese. Sì. Questo penso che come italiani dobbiamo solo esserne contenti. Sì, sono due movimenti, e quindi quello che riguarda tutti i paesi si sono ridotti in grazie anche all'iniziativa di un altro italiano, Mario Draghi, che adesso ha fatto un po' arrabbiare i tedeschi, si sono accorti che sta trasformando la BCE in una vera banca centrale. Noi invece ne siamo contenti, continuiamo a dirlo in questi giorni, ma dicevo, grazie sicuramente all'iniziativa della Banca Centrale Europea si sono ridotte le pressioni e del Fondo Salva Stati, le pressioni in generale, però noi abbiamo recuperato e quindi ridotto lo spread più di altri paesi, tant'è che abbiamo recuperato anche la differenza con la Spagna. Verissimo quello che tu ricordavi, ossia il periodo di novembre era un periodo in cui costava di più trovare finanziatori per il debito a breve che non per il debito a lungo, che è un'anomalia, perché di solito se ti devo prestare dei soldi ti chiedo di meno se te li presto per un mese che non se te li debba prestare per 10 anni, e a meno che io non ritenga che sia imprevedibile il tuo futuro a 10 anni e quindi manco vado a calcolarlo per estremizzare. Voi tra l'altro, come Sole 24 Ore, al di là di quel titolo che poi ha fatto storia, uscite domani in edicola con la prima guida, ogni sabato sarà a partire appunto dal 3 marzo, risparmio e investimenti in tempo di crisi, sono le guide di Plus 24, che sapete tutti è il dorso dedicato alla finanza e al risparmio gestito, la finanza personale e risparmio gestito. Domani esce Conoscere i mercati. L'obiettivo qual è? Perché io temo che i lettori siano ancora molto diffidenti proprio sui mercati. No, ma la parola chiave di questa nuova collana è i tuoi soldi. E credo che l'esigenza sia profondamente avvertita. Proprio questa situazione mutevole di tensione che ha segnato i mercati in questi mesi disorientano, quindi creano confusione, e quindi è opportuno nella nuova situazione, per quello che dura, non suggerire, perché questo non appartiene a Sole 24 Ore, singoli investimenti, ma dare tutte le informazioni utili per prendere con la propria testa e con il proprio portafoglio le decisioni che si ritengono più giuste. Ecco perché da domani in edicola inizia questa nuova collana I tuoi soldi, dalle azioni ai fondi, ai bond, il manuale per capire i mercati. Se mi posso permettere, è un po' la prosecuzione dello sforzo editoriale che abbiamo compiuto in questi mesi. Un giornale come Sole 24 Ore si deve far capire, si fa questo tentativo con la parola chiave, lo fa con la bussola per il risparmiatore, lo fa con il dizionario dei mercati e delle manovre, dove spiega i singoli provvedimenti, ne giudica la realizzabilità e l'efficacia, a maggior ragione lo fa per il pubblico del risparmiatore, aiutandolo a capire i mercati e dando tutte quelle informazioni che a volte che sono utili alla famiglia, sono utili al singolo investitore e in molti casi secondo me sono utili anche a chi fa questo di professione. Allora grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Tra l'altro martedì, domani esce la prima delle guide sui nostri soldi, ma martedì esce la raccolta, questo lo dico io, delle 8 puntate dell'inchiesta all'anno che ha cambiato la vita degli italiani, per spiegare le varie manovre prima del governo Berlusconi, poi del governo Monti. Martedì sempre 50 centesimi di euro oltre al prezzo del quotidiano. Il GR, poi la borsa e poi l'ultimo libro di Edoardo Nesi su un futuro che lui vorrebbe senza passato. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi l'ultimo libro di Edoardo Nesi, che usiamo oggi come economista, anche se lui di lavoro fa ormai lo scrittore, prima l'imprenditore. E la trilogia si chiude sulla storia della deindustrializzazione di Prato. Ma andiamo sulla borsa. Più 0,43%, Milano la migliore, con Parigi invariata, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,30, l'America meno 0,20. Non è stata una giornata particolarmente ricca di notizie, però Azimut più 6%. Ciao Condina, Radio Corri, Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Azimut oggi è stata la migliore, come dicevi tu, ha guadagnato praticamente il 6%, ma non è una novità, già nelle sedute precedenti era avanzata, infatti il bilancio delle ultime quattro sedute è ben superiore al 10%, perché questo balzo a gennaio il sistema dei fondi a cui appartiene appunto Azimut ha segnato un deflusso pari a quasi 4 miliardi, insomma la gente non investe più in fondi, invece Azimut è andata bene e ha registrato una raccolta netta positiva per 113 milioni, quindi fiducia nella società e fiducia anche da parte degli operatori di borsa in questa società. Fiat va bene nonostante i bruttissimi dati sulle matricolazioni auto, perché va bene Chrysler e quindi sì, il mercato ragiona sempre di più come una Fiat americana. Più 2,15% Fiat camion e trattore, cioè Industrial, più 1,34%. A2A in recupero più 2,5%, A2A. Sì, ieri c'era stato il famoso giallo sulla Svizzera al PIC, che aveva provato invano a vendere una quota del 5% della utility, però era rimasta la scia, poi anche polemica con un intervento della Consob, del forte calo di borsa della multi-utility lombarda. Oggi è passata insomma la riscossa, anche se non ha recuperato tutto, più 2,5%, quota 0,75 euro. Banche contrastate oggi, nel senso che Banca Popolare guadagna il 4,72%, Generali, quindi assicurazioni più 3,20, Realizzi invece sulle altre, dove, che ieri molto avevano corso, Intesa San Paolo meno 1%, Popolare Emilia Romagna meno 0,40, UbiBank meno 1,25, Unicredit meno 0,30%. Da segnalare tra chi va bene anche Tenaris più 3,5 come Mediaset e Lottomatica più 2% come Salvatore Ferragamo, Parmalat più 1,6%. Vorrei concludere però con due titoli più sottili, ossia, però, che sono i migliori in assoluto, nel caso di Seat, Pagine Gialle più 19,50%, poi Bene Pininfarina più 16,92% e poi PRL più 15,84%. Seat e PRL. Sì, Seat oggi era uno dei giorni fondamentali per il salvataggio della società, era fondamentalmente il primo appuntamento in cui si sarebbe fatta la conta sui creditori che accettavano, diciamo, di riscadenzare il maxi debito pari a 2,7 miliardi della società. Un appuntamento che il mercato scommette che possa essere positivo, che si possa raggiungere il quorum necessario per proseguire nella continuità aziendale, che è il 75% dei creditori. Per quanto riguarda invece PRL, c'è stato un accordo con una società svizzera per creare, la società svizzera si chiama Mondo Biotech, per creare un polo specializzato nella ricerca e quindi il titolo è stato premiato dagli operatori. Grazie, ciao. Il peggior titolo, scusatemi, Banca Carige meno 5,92%, poi Industria e Innovazione meno 9,30%. Grazie a Ciro Condine, buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corri, Sole 24 ore. Adesso, come spesso facciamo, ogni tanto, non spesso, il venerdì cerchiamo di parlare di economia o di finanza con personaggi che non vengono strettamente da quel mondo. L'occasione è fornita dall'ultimo libro di Edoardo Nesi, Le nostre vite senza ieri, casa editrice Bompiani. Eh sì, mettiamo Happy World su questo libro, perché Le nostre vite senza ieri chiude la trilogia iniziata con un libro che portammo in trasmissione quando Edoardo Nesi ancora era molto sconosciuto. Si chiama L'età dell'oro, raccontava la vecchiaia in un futuro 2020, adesso glielo chiederò

il futuro non è più un'immensa autostrada vuota e l'economia non è più una rombante Ferrari a 12 cilindri. A noi, alle nostre figlie e ai nostri figli, è toccata in sorte una stradina stretta e siamo al volante di un'utilitaria ibrida in mezzo a un traffico infernale. È una vita senza ieri quella che ci apprestiamo ad affrontare nel XXI secolo. Ma poteva andarci peggio. Ai nostri bisnonni toccò la prima e ai nostri nonni la seconda guerra mondiale. Non c'è più tempo per lamentarsi, per intenerirsi a ricordare l'odore della lana. A dirla tutta, non c'è mai stato. Ricorda con struggimento il passato solo chi teme il futuro. E questo davvero non possiamo più permettercelo. Io di certo non posso e non voglio più permettermelo di temere il futuro. Lo affronterò e vada come vada. Al passato, però, vorrei dare l'addio che merita. Allora, il passato è il pretesto per parlare del futuro. Nesi, lei sa che io e lei ci confrontiamo ogni volta, non è che assuma le sue tesi in maniera così apodittica, per usare un parolone. Prima domanda, poi c'è il traffico. Ma come facciamo a disegnare un futuro se, per i nostri figli, per i suoi figli, che sono più grandi del mio, ma se non abbiamo in testa nemmeno noi questo futuro? Beh, innanzitutto complimenti al lettore, è stato bravissimo. Li paghiamo per questo. Il futuro noi ce lo dobbiamo costruire, dobbiamo prendere atto che tutto ciò che ci veniva insegnato in passato, tutte le buone regole che ci venivano insegnate, che avevano dato la prosperità ai nostri padri, oggi rischierebbero di farci fallire dopo 2 anni se aprissimo un'azienda. Bisogna aprire aziende nuove, farle forse dovremmo farle aprire ai nostri figli piuttosto che a noi. A me è sembrato che in questo libro lei, chiaro che chiude la trilogia, ma dica vabbè, adesso io faccio un passo forse laterale, ma quasi indietro, cioè noi stiamo diventando, noi la generazione sua in generale, poi anche quelli che hanno piani di lei, una zavorra per questi giovani. Ho capito male? No, è così, ma non perché, no, oddio, noi abbiamo delle colpe forti, la mia generazione soprattutto è stata ferma e si è fatta governare da chi non doveva governarci. Però il punto è forse un altro, cioè siamo sicuri noi di avere gli strumenti? Cioè in un mondo in cui Facebook vale più della Boeing, noi, io ho 47 anni, insomma, noi di questa generazione, siamo sicuri di aver capito dove è andato il mondo in questi anni? Forse no. A me ha fatto molta impressione qualche settimana fa parlare con una ragazza, una collaboratrice della radio che ha 26 anni, e che mi ha detto, io quando parlo con voi non mi sento, io ne ho 43, con la tua generazione non mi sento capito, non ci intendiamo, non c'è empatia. Chi mi capisce veramente sono i nonni, quelli che sono venuti dal dopoguerra, perché loro la crisi l'hanno affrontata, hanno affrontato anche la rinascita. Come dire, il salto generazionale è così forte che una 26enne si trova meglio capita, meglio compresa da chi è venuto da un periodo difficile che non da chi come me, lei e altre persone sostanzialmente è cresciuto con attese crescenti, come le chiamano gli economisti, con un futuro che comunque se tu studiavi, se facevi i compiti scritti, orali, tutto sommato era un futuro in crescita. Vorrei la sua risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. C'ero rimasto male anch'io e m'ero offeso anch'io per quella storia dei pigs. Lungi dall'essere una di quelle ciniche, irresistibili freddure anglosassoni, assomigliava più a una sentenza già scritta, già condivisa, con la quale si condannava l'Europa del Sud a diventare l'estrema periferia dell'impero. Una regione dal passato illustre e dal presente residuale, dimenticata e impoverita, incapace di badare ai propri interessi e tantomeno di difenderli. Poco più di una grande colonia turistica, un buon ritiro. Una versione gigantesca del vecchio stadio del tennis del Foro Italico di Roma. Un'immane distesa di campi da golf cinti da musei e monumenti e ristoranti, dove per le nostre figlie e i nostri figli resta solo la scelta tra diventare cameriere, caddy o custode, per poi indossare uniformi senza simboli e passare le giornate a servire Chardonnay ai nuovi ricchi del mondo, accompagnare settantenni portando le loro borse piene di mazze, montare la guardia a quadri antichi e rovine. Come se, invece d'essere le vittime del futuro distopico e dissennato che abbiamo irresponsabilmente apparecchiato per loro, non fossero che gli eredi inetti e dissoluti, esangui di pensiero e volontà di quello che un tempo era un grande patrimonio, una grande storia. Del resto, noi italiani, noi europei del Sud, sappiamo da tempo di essere stati condannati a vivere in questa assurda Babele globale, costruita solo e apposta per ingrassare i bilanci delle banche e delle multinazionali. Allora, Nesi, non è strano che una 26enne dica: io mi sento più capita dai nonni che da chi ha 15-20 anni più di me? Beh, è strano e terribile al tempo stesso. Temo anche che sia vero. Bisogna chiederci che cosa non siamo riusciti a fare per evitare che questo succedesse. Bisogna chiederci se non era possibile far qualcosa, se forse se siamo ancora in tempo, tra l'altro, anche perché noi una risposta a questi ragazzi e a queste ragazze la dobbiamo dare. Ma forse perché venivamo dall'età dell'oro, come lei ha scritto nel primo libro, tutto cresceva, la storia ci passava sopra, non si capiva bene perché, ma eravamo diventati improvvisamente la quinta potenza al mondo, con il lavoro durissimo dei padri, con lo spirito di impresa, col sacrificio, con l'emigrazione. Però insomma, così, forse quell'età dell'oro ci ha un po' drogato, no? Beh, può darsi, è un punto abbastanza interessante quello che in queste conversazioni noi svolgiamo sempre, Marisoni, cioè a questo punto che le ragioni per cui le cose andavano così bene durante l'età dell'oro non erano così ben chiare a tutti, no? Io ho conosciuto imprenditori che continuavano a fare fatturati in crescita anno dopo anno, e quando gli chiedevo ma come mai avevano questo successo, loro francamente non lo sapevano dire, al di là di tutto l'impegno che mettevano nel lavoro. La realtà è che siamo vissuti e abbiamo visto la crescita di un sistema che era veramente straordinario, perfetto, fatto per noi che avevamo delle piccole aziende. E oggi questo si è completamente rivoltato. Sì, su questo io mi ricordo ancora quando dicevo, beh, forse così come non abbiamo mai capito fino in fondo le ragioni del boom, cioè ci è arrivato, l'abbiamo preso, siamo stati bravi a cavalcarlo, ma non è che l'abbiamo capito fino in fondo perché l'Italia a un certo momento esportava qualunque cosa. Adesso non capiamo così bene le ragioni del declino o dello sboom, la storia che ci passa sempre una spanna sopra la testa. Però mi dica una cosa, Nesi, lei in questo libro cita anche molti casi di attualità, lo spread, i pigs, l'abbiamo appena ascoltato. Mi sembra che, perlomeno, visto che oggi festeggiamo, tra virgolette, il fatto che il nostro spread è tornato a essere più basso di quello spagnolo, non capitava dall'agosto, che un po' di reazione il paese in questi mesi l'abbia avuta, però non so dirle se durerà, ma un po' di reazione c'è stata. Beh, vede, la finanza ha accomodato la finanza. Nessuno sta pensando all'economia, però. Cioè, siamo tutti contenti, naturalmente, soprattutto per chi aveva dei titoli dei BTP, insomma, che le quotazioni siano cresciute e che tutto sia tornato un po' meglio di prima e che lo Stato non abbia più davanti a sé quel baratro. Però io tutti i santi giorni parlo con imprenditori, piccoli e grandi, soprattutto piccoli e piccolissimi, che mi raccontano un altro mondo, insomma non hanno nessuna ragione di festeggiare, non riescono a ottenere un fido in banca neanche portando la garanzia del proprio immobile, della sacra casa. Quindi bisogna che questo governo provi a dare delle risposte anche a queste persone. Ma insomma, oggi c'è stato un accordo importante, il Fiscal Compact, ne parlavamo in apertura, quindi, che per noi però è costosissimo, devo dire, perché ridurre di un ventesimo il nostro debito, cioè deve essere portato al 60%, vuol dire ridurlo di 3 punti percentuali l'anno per 20 anni, sono 45 miliardi l'anno per 20 anni. E questo è il futuro per i giovani? Ma io mi chiedo, voglio dire, è una notizia disperante questa. Io mi chiedo come sia possibile, tra l'altro poi bene sta facendo a parlarne, perché comunque di questa cosa, che è, come dire, una sorta di nostra condanna futura, si parla troppo poco in televisione, si parla sempre della Torino-Lione, si parla delle leggi elettorali, si parla dei vari dissidi tra i partiti o all'interno dei partiti, ma non si parla di questa sorta di condanna firmata oggi. Come si farà a rendere quei soldi, insomma? Poi anche, Marisoni, in base a quale idea? Cioè, il debito di uno Stato non è come il debito di una famiglia che prima o poi si deve restituire, no? No, no. È l'idea tedesca, ma qui non mi faccio di nuovo essere antitedesco, sennò fra un po' non mi fanno più entrare in quel paese. È un'idea tedesca molto diversa dall'idea americana, che invece ha fatto debiti in questi 3 anni e però sta anche ripartendo. Mi dica una cosa, Nesi, perché siamo in conclusione. Con questo libro lei chiude la partita con ciò che è stata la storia anche industriale dell'Italia, che pochi raccontano. Si dedicherà di nuovo a romanzi di altro genere? Beh, diciamo che ho voglia di scrivere un romanzo d'amore, è un po' di tempo che lo tengo fermo da una parte, avrei proprio voglia, un bel romanzo lungo, sa? Ma la Garcia Marquez, cioè l'amore ai tempi del colera, l'amore ai tempi della crisi, una cosa del genere? Sì, la crisi ci sarà per forza, però mi piacerebbe una bella storia d'amore, insomma, c'è voglia. Una storia di amore, magari di amore anche che cresce, no? Così non parliamo sempre di qualcosa che decresce, Nesi. Infatti, poi tra l'altro parliamoci chiaro, io sono un ottimista davvero, cioè io credo che meno male che è ottimista con quello che abbiamo letto. Comunque io devo dare anche atto e credito a Diego Balduin, che era il lettore di queste pagine, che lei appunto ringraziava. Nesi, in bocca al lupo con questo libro, Le nostre vite senza ieri, casa editrice Bompiani, in libreria da oggi. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di un buon fine settimana. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.